posso dirti? Qualcuno qua? Attenzione, Maccolino Combo, ci sei? Hola. Hola. Attenzione, Maccolino, ci sei? C'è qualcuno qua? Attenzione, canali. Avanti, c'è qualcuno sul canale 10? Oh, beh, zio Claudio. Oh, tu sei, o è Giulio? Beh. Tu eri, ciao Antalì. No, mi sembrava lo stacco della portante di Claudio. Oh, Natalì, hai visto che bello, finalmente un po' di fresco. Guarda, sto maestrale è stato una ventata di coso, una boccata d'aria. Sono veramente contento, abbiamo aperto tutto qua, bello fare circolare l'aria, rinfrescare tutto. Sono contento, Natalì, guarda. Speriamo che sia sempre così settembre, tanto mi al mare non ci vado. Alla fine non ci stanno nessuno al mare, quelli che entrano qua al baracchino. Tutto bene. E io c'ero da presto oggi. Stavo chiamando ma non c'era nessuno. Ah, non è entrato nessuno? Nessuno completamente. Natalì, manco entrato, mi dispiace per te. È arrivato il pranzo adesso. Ma ne devo andare? Il colmo è. Ah, sembra fatto apposta. Sembra sì, fatto apposta. Sono andato anche da Eurospin a farmi la spesa stasera. Ehi, ascolta, ieri è entrato nessuno perché ero tutta la sera fuori. Prima ho fatto la spesa, poi sono andato alla Pomponio, siamo andati al bar, prendiamo una birra, lui ancora una birra, poi un'altra birra, io invece il caffè perché fino al bicchiere non ne posso bere, se no mi dà la testa. E poi ho detto, Antone, io sto andando via, se devi fare la spesa dimmelo che andiamo, e siamo andati in via Verona a fare la spesa, perché lui con quelli che ha lo felice non ci azzecca tanto. Sono più maleducati. Ma io sono andato, non mi hanno mai risposto male. A lui piace perché lì lo salutano, lo incensano, capito? Gli piace più il contatto umano. A me non interessa, a me basta acquistare, poi si possono anche piccare i dipendenti di via Carlo Felice dell'Eurospin. Tu dove vai? Beh, io immagino che tu vada più vicino, no? Via la Porto Torres. Sì, sono andato in via la Porto Torres e poi sì, tornando sono passato alla Sisa perché dovevo prendere il mangime per la gatta e per il cane. La sabbia invece l'ho presa da cosa? Da Eurospin, quella che prendo sempre, quella rossa. Ah, l'hai trovata questa volta, sì. E sempre quella prendiamo perché quella di Lidl, quella grigia, tremenda, fa il cemento, anche se finisce fuori anche un po' della vaschetta lì, dei gatti, se è umido fa il cemento, bisogna staccarlo poi con la schedola a terra, capito? Chiedevo se ieri è entrato nessuno. No. Stavo dicendo, ho fatto la spesa e poi non sapevo cosa fare e mi ho pulito la peretta. Sì, Eugenio, ti ascolto, c'ho un po' di QRM elettrico, però ti ascolto. Io fra poco devo scappare, me che c'è il pranzo pronto. Natalino, lo senti Eugenio? Basso. Caspita, sei a Porto Torres quindi? Arrivi, a parte il QRM elettrico sei Santiago 7 circa. E quindi ben sentito, dai. Cappa Natalì, ti sei pulito la peretta, cos'hai detto Natalì? Sì, la peretta, cerca di capire. Non ci stavo pensando Natalì, ho detto la peretta, poi ho associato. Ho associato, dai. E con Pomponio, caspita, parlando. Poi è arrivata la sorella, abbiamo salutata. E così, dai. Ho passato una serata diversa per stare a casa. Però poi ero stanco perché lui voleva ancora star fuori. Ho detto, Antone, io devo tornare a casa. Devo finire di mangiare. Capito? Sono arrivato a casa che erano le 9 di sera. Per me è un baby, è un baby. Sì, figurati. Ah, me dai, vai a pranzare. Io già sono ascolto, sei già acceso qua, se dovessi entrare già ti rispondo. A Claudio non l'ho sentito. Ok, vabbè. Anch'io mi rimango in quel ritmo. Ci sentiamo, ciao. Ciao, sono qua. Ah, lo vedi che c'è zio Claudio? Adesso lo vedo. Tutto a colori lo vedo. Ma c'ero anche ieri, ti ho detto che non è entrato nessuno. Poi ha caccato la luce. Certo, hanno finito a piano le opere di fare i lavori e quindi non sono entrato più. Se mi ha caccato la luce io me ne sono accorto. In ascolto, ma pigliato. Dopo spento verso le 8, quindi è logico che non potevi entrare. Ho detto, Natali, cos'è il video baracchino a colori? E allora? Perché tu il bianco e nero ce l'hai? Questo è il vecchio modello. La storia del video baracchino, dello spray per le stazionarie, ti ricordi tutte le burle per i nuovi entrati? Io me le ricordo già. Ciao Marco, ciao, buonasera, ciao anche Eugenio. Hanno staccato poi di nuovo la seconda volta, non l'ho mai sentito più, e stavano cambiando un trasformatore lì, ha finito ai nuovi. E quindi non ho acceso più, si abbiglia le luci. Perché sono sottodimensionati, o hanno quelli giusti e li stanno cambiando a tutti. Ma che cosa la sinonia, tanto saltano. E infatti spesso saltava la corrente qua in questa cabina. Ho visto che c'era il camion gru, mi è sceso questo trasformatore, poi verso la nuova chiamata la luce, capito? Va bene. Vabbè, a dopo, dai, salve imprevisti, ciao. Ciao. Signor, mia moglie non c'è, è uscita col cane, è uscita. Ma è un bel freschetto, 21 gradi ci sono qua, un bel freschetto. Fresco. Infatti, stamattina già me ne sono accorto. Gicata, se sai davvero la pettorina del cane mio, non ci credi. E dov'è? Dentro una borsa a frigo. E lo sai perché l'ho scoperto? Perché le ho usate tutte e due le borse a frigo, quelle rigide, perché ho dovuto sbrinare il frigo che era un casotto. Il freezer, tutto pieno di ghiaccio, aggiobigliato, la giovedo burrito, tutto quanto, stamattina, poi stasera sono andato a farmi la spesa e tira campà, ecco già ci vuoi fare, già va bene, e come ti mai la 30 kg la pettolina? Mia moglie si era qua da anch'ivi, per tutta non riuscì a ciapparla. Ah, quella che praticamente ha detto che avevi perso. E allora? Lei ha avuto, ne hai due. E una gliel'ho fatta io. Il artigianale della conservi, le rimetti la sua. Ma gli è diventata piccola, mi sa che gliela compro una come si deve, va. Il giorno che sono a Predanieta già lo so io dove andare a comprarle. Che la cosa costa un bel poco, anche i medicinali per i cani, li paghi la metà di quanto costano in farmacia. E io non vado lì a Predanieta. Cosa, un medico, non ti diciamo. Da Velvet, vado, prima di Franco Enna, semi. Vendono di tutto lì, sanno di tutto. Sì, già lo so, vabbè. Non c'è problema, già c'hanno roba anche buona. E infatti, allora una bettorina ve la darà già comparà, come si mangia a Predanieta ve la comparà, perché quella lì è diventata piccola. Beh, si cresce, quindi è chiaro che comprata già due volte. E vabbè, ma il mio barichino crescia invece mi abbaia. Sì, cresci, si pare a te che non cresci. Perché è piccolino, eppure gli è diventata stretta, è diventata piccola, va, giusta gli è, però ve la devo comprare una, a chi sa, è troppo... Si compra quella regolabile, come ho fatto io, capito? C'è quella regolabile, e così si è a posto, mai problemi. Anche questa era regolabile, però è al massimo adesso. Ah, massimo, e allora? Ne hai ricomprato un'altra? Mi sa proprio di sì. E si conferma, KK. Eugenio, ho già detto che era al lavoro, o ci ha detto? Boh, non l'ho sentito io perché lo sentivo basso basso, che c'avevo un disturbo anche io come Marco. E c'è un po' di QRM, sicuramente sta arrivando qualche temporale, pioggia, non so, è un po' nuvoloso. Sì, forse anche sui può fare, ma pesa me la giuga fatta io. Ehi, vabbè, abbiglielloci. No, io domani mattina sono al lavoro e poi ho finito. Rientro la prossima. E cavagava. Mi sono posto col cane, almeno c'è fresco. Un giretto al cagnone e poi quella partita con giudice Spagna-Italia, mi sembra a Rai 1, a Canale 5. E dopo guardo a vedere dov'è e me la guardo, a che ora è? Sarà le 8:30. E mo guardo a vedere in che canale è e a che ora è. Allora, tanto me lo dice il computer. Sì, è la partita al Bernabéu in Spagna, per vincere l'Italia, se no è un casino per i mondiali. Se non è amichevole, giustamente, si viene vincisti in calcio, Rai 1, Spagna vs Italia, alle 20:30. Non ce n'è amichevole, no. Non ce n'è amichevole, passaggio per i mondiali. Ah, 20:30, Rai 1. Te l'ho detto, Rai 1, Nicola, cioè, Rai 1, Canale 5, ma Rai 1. Tu vuoi sapere i programmi, basta andare su Stasera in TV e ti dà tutta la programmazione. Sì, te lo dà anche al telefonino. Ehi, vabbè, io faccio il computer davanti, no, che quindi... Io anch'io ce l'ho davanti, ma è sempre spento, ma... Io invece ce l'avevo acceso. Mi è sempre spento anche lì. Accendo sia 5 minuti, guardo le mail e poi il tutto. Ah, già, che serve il computer, mi ha fatto le balle. Sì, infatti. Oh signor, io perché guardo il coso dell'ufficio di collocamento, insomma, mi serve per quello, per guardarmi la posta. E prima sempre acceso, accendevo prima il computer della radio, stavo sempre lì sul caster, capito? Allora, adesso non mi ha fatto nulla, quindi adesso per il lato. Mica pagava. Anda bene mera. Sì, un po' nuvoloso, adesso vediamo se domani, come ha detto, dovrebbe essere nuvoloso, ma più già niente, sicuramente dalla prossima settimana c'è qualche passata d'acqua. E Dio la voce a Balocchi, siamo a secco, diavolo. Io sono a lì, però queste prime piogge possono creare problemi, eh? Speriamo di no, io sto dicendo pioggia tranquilla, va. Quindi non può essere tranquilla, visto cosa ha fatto a Torino, continente, allagamenti, un casino. Questa pioggia pericolosa, quando si arregheggia un po' tanto, può fare danno, capito? Non è pioggia leggera, sicuramente è temporale. Ma speriamo invece che butti tutto sugli invasi, acqua, forse. Sì, se piove già invasa, tanto. Però sempre più vista di andare a mare, che è quella che va nei bacini, ricordatelo, perché non c'è recupero. quello di acqua piova è veramente una cosa allucinante. Ci vuole pochissimo a invasare l'acqua piovana, invece se ne andrà in fogna. Che strano, non è possibile, quanti siamo buchi, cazzo. Allora, in Francia invasano l'acqua piovana, non hanno mai problemi, capito? No, che siamo degli handicappati, con tutti i bacini che abbiamo fermi, guarda il Bunari, guarda tutte le righe che abbiamo, basta invasarla l'acqua piovana e vedi che problemi non ne abbiamo, no? Invece te la fate andare a mare. Ma io non lo so perché non si mettono in regola questa gente qui, boh. Cazzo, accontano i vissibili da Cunza e via, e la invasi l'acqua, boh. E ci vuole poco. Ci vuole poco, basta bypassare, capito? Però c'è il passaggio dell'acqua piovana, come lì a San Pietro a Mare, a Valle d'Oria, come da tante altre parti, dove l'acqua va direttamente a mare. Che se non lo so, qui, boh, appigito sta chi c'è, ragazzi, eppure, boh, non lo so. La fai rientrare nel bacino. Cazzo, è una cosa che non si crede. E invece la se ne andrà a mare, così vuoi ti dica. Vogliono presi e arrestati questa gente. Non ne hanno di voglia di fare niente, hai capito. E avviene a Roma che avviene capato pure il travaglio. Oggi vuoi ti dica. Infatti, sono delinquenti e tu. Sì. Vabbè, là. Io preparo qualcosa adesso per mangiare stanotte. Me ne passo in quel recitante, fino a che non entra più nessuno, come al solito. Sono da presto qua, ma... Oh, Arturo è entrato, Marco, 5 minuti è fuggito, a chi deve mangiare? Beh? Lo vasi la grappa. Oh, mamma mia, non finiva più quel pesce. Quel merluccio lì con la maionese, in verde. Me l'ha dato un bel, mamma. Aspetta. Ma ci sono già mezzo sazio. Beh, la linga avete perso. No, io già sono qui. Me ne stavo andando a preparare qualcosa da mangiare. Ehi, ma chi è entrato di nuovo? Claudio. Claudio lo sapevo già. No, credo fosse entrato qualcun altro. Oh, negativo. Te l'ho detto che sono tutti con l'ossigeno. Non ve la faccio più, nemmeno col fresco. Prima era la scusa del caldo, ma adesso non ci sono scuse. No, non respirano più. Ciao gente, ci sentiamo dopo. Ehi, ciao Cla. Ciao. Ciao che hai salutato. Ehi Natalia, se devi fare roba, falla. Infatti io mi sto guardando i telegiornali, sempre notizie di Menga. Notizie non belle. E dai, se devi andare vai. Io tanto mi guarderò la TV. Io c'è la partita stasera su Rai 1 alle 20:30, Spagna-Italia. Oh, potrei anche guardarla, dai. Vabbè, c'ho dei film, di mi interessa, se, di mi interessa, se non l'avrei guardata, dai. E ok, dai, io me la guardo, tanto guardo solo l'Italia, non sono tifoso di nessuna squadra. Lo stesso io, guardo giusto la Juve perché non è juventino. Mamma non è sportiva ma è filo juventina perché lo era nonno, capito? E vabbè dai, va bene Nazzarino, dai, io torno alla TV, ok? Tanto vedo che non c'è mordente. Pompone è entrato e oggi? No, non l'ho sentito neanche di là, che c'ho anche quello là. Vabbè dai, già ci sentiamo domani, se tutto va bene e se Dio vuole i carabinieri permettono. Ci stiamo organizzando per andare in digitale. Con Pomponio abbiamo adocchiato un apparato, se tutto va bene, soldi permettendo, sperimentiamo anche lì, dai. E allora mi devi dire cos'è, cosa, ma come non è, me lo dirai al telefono. E qua quanto ci vuole in dollari? Dollari almeno 120. Sì, non è molto, va. Però dobbiamo vedere modelli e prezzi, perché non vogliamo spendere troppo. A me già per casa me ne servono due, già per me, poi lui se ne può comprare uno, due, a me me ne servono due, e quindi la spesa raddoppia. E mi devo salassare, rinunciare a mettere in moto la moto per comprarmi quegli apparecchi. È un casino, è nata lì. Ti ho detto, i sogni sono tanti, i desideri sono tanti, ma i soldi sono pochi. Lo so. Anch'io ho desideri, ma non posso... Cazzo, qua. Questo mese ero proprio triccia triccia. Avevo l'ombrello aperto e sono bagnato. Purtroppo è una situazione di molti italiani. Molta gente è messa male, non sta lì. Non si arriva a fine mese, quindi altro che sogni, lì bisogna mangiare, boh. Servono a campare i soldi, ma non ti puoi togliere più nessun gusto. E infatti ho notato. Cazzo, mi è arrivata una bolletta dei duce tremenda, boh. E arrivo a Gesù, lo ventilatore, ma non penso che sia quello lì che abbia fatto salire la bolletta, boh. E quanto è venuta? Cavolo, 104 euro, quando ne pagavo una cinquantina io, il doppio. Natalie, guarda che anche noi siamo nella stessa... Noi siamo in due lo stesso e certe volte su intorno ai 100, certe volte ai 150 anche me. Tipo quando attacchiamo in inverno stufe elettriche, oppure in estate che mettiamo molto il clima. Capito? Comunque siamo nella media, anche noi come media abbiamo quella spesa lì, Natalia, uguale, andando bene pure mi intorno alle 100, quando fa bene, quando va male intorno alle 150 o giù di lì. Ma lo sai solo per il bollo della macchina quanto ho dovuto togliere da quella pensione che piglio io? 161 euro solo per il bollo della macchina. Così tanto per una macchina? E quanti cavalli ha? La mia è 85 cavalli, cioè. Forse più potente, sì, la nostra ne ha pochi, è un ciodu. Per quello è nata lì, noi paghiamo meno, ma è più lenta, molto meno potente. Vabbè, purtroppo, caspita, a Giumai costa meno l'assicurazione del bollo della tua. La mia è 1900 turbo diesel, anzi c'ha pochi cavalli, perché ci sono certe 1900 turbo diesel che cavano di nani 120, capito? Quindi quelle pagano ancora di più. E la nostra è 1000 di cilindrata, cavalli ne ha ben pochi. Altro i cavalli, forse qualche asino avrà come potenza. Ehi, due cavalli e un asino. Vabbè. Pensa che mamma, nonostante lavorasse, proprio perché quando lei andava in gallura si doveva pagare l'affitto, la luce di seconda casa, si doveva mantenere lì, capito? Oltre alla casa di qua. Quindi lei purtroppo macchine nuove non ne ha mai potuto comprare, ha dovuto comprare sempre e solo usate, perché se no non ce la fa con le spese. Lei è stata 10 anni in gallura, sai quanto avrebbe risparmiato facendo i conti tra luce, casa, spese personali? Avrebbe avuto 80.000 euro in più, euro è, non lire, 80.000 euro in più se avesse lavorato a Sassari, ma purtroppo ti mandano sempre fuori, il casino è quello. E lo stesso, c'è un amico mio professor Lorenzoni, quello lì sempre fuori lo stesso, infatti una volta sono andato a lavorare a Valledoria io e lui era lì che insegnava. Aspetta, chi è che vuole entrare avanti? Oh, me la sembra di vedere una portante. un segnale così. E anche se fa il bidello, Natali, lo sai, anche se fa il bidello, come avrei voluto fare io, ti mandano fuori e quindi ti fai fuori, ti devi pagare la casa, la luce, il cibo, la benzina se c'hai macchina, e alla fine a zeri, cioè non guadagni nulla, fai fuori per quello che ti danno per il lavoro, te lo spendi in casa e cose, quindi non pari e patta, è come non aver lavorato, capito? Invece se trovi un posto come bidello a Sassari o dintorni immediati, tipo il circondario di Sassari, allora sì che stai, che hai un guadagno vero e proprio. Se no, è logico, se uno viene da Sassari, se pagare anche la casa di Sassari, oltre a quella di dove vai a lavorare, non guadagni un tubo alla fine, perché ti spendi tutto. E tassamondezza, è ghito, mia moglie ha pagato 200 euro solo lì di bollette, ti sto dicendo, ci sono ammazzenti. E noi lo stesso, mi pare che, guarda, l'uno ha appena ritirato lo stipendio, mamma ha dovuto pagare delle tasse che erano in scadenza, non mi ricordo cosa era. Poi ho dovuto pagare la luce e poi un'altra tassa, non so se era rifiuti, rateizzabili, perché o li paghi tutti assieme o li pagherà. E penso che non meno di 200 euro siano già andate. Appena entrati i soldi, già 200 euro in fumo, cioè non in fumo, in tasse. Un casino, viviamo brutti tempi. O nasci figlio di ricchi o non vai da nessuna parte. E infatti, guarda, io non so più a che santo votarmi, perché proprio la tassa rifiuti noi la pagavamo sempre tutta intera, no? Senza rateizzare. Beh, la stiamo rateizzando. Sì, anche noi, ma a noi viene più comodo, cioè loro ti mandano o il bollettino unico, cioè ti mandano assieme il bollettino unico oppure le rate. Noi preferiamo pagare la date, cioè perché pagarla tutta assieme quando la possiamo pagare mese per mese? O due al mese ne puoi pagare, due in un mese anche, non c'è limite, però ci viene comodo, e se no cominci la luce, tot, ogni mese, è un casino, Natali, per carità. Poi mamma, quanto credi che prenda mamma? Non lo so quanto avrà a prendere di pensione, però cazzo, pigliano sempre il bocco, e cazzo, oggi se non vai di là, non arrivi a fine mese. Eia, conta che lei è entrata di ruolo molto molto tardi, è entrata in ruolo molto tardi, quindi lei c'ha, vabbè, a parte le supplenze c'ha pochi anni di coso attivo, lei prende 1000 e spiccio, tipo 1080 euro, 1000 euro più 80 euro, capito? È come che fossero 1000 euro, e in due sono pochi, un bel pochi. Sono pochissimi. Guarda, io sono arrivato l'anno scorso, quando ho fatto i 6 mesi al comune, ho preso un bel poco di stipendio. Cazzo, più di 1200 non pigliavo, Pigliavano più i generici che noi, ce li hanno restituiti dopo, ma la Rai AD. Però al mese più di quello non pigliavo. Cazzo, io sono arrivato a prendere i stipendi pure 1800. Ma come? Non per quella roba lì, no, per un altro lavoro. Autista al comune, io ero operaio qualificato e quindi prendevo un sacco di soldi. Eia, è autista al comune, è buono, mi capito, trasporti quei magnacci del comune e li pagano meglio, però caspita a trovarlo. Oh, lì non c'entri, manco si fa ammazzi. Io facevo proprio lavoro di caricare, scaricare la roba, gas, lavoro faticoso era il mio, e di testa, perché io non li ho lasciati mai senza materiale, e poi dovevo andare solo io a comprarlo, non voleva il geometra mio a mandare i geometri e gli altri a comprare la roba, andavo solo io a comprarla la roba. Insomma, si fidava di te, dai. Casino, eh. Pensa io che condizioni sarò un giorno. Vado a rubare. E qualche rapa toccherà fare. Ma io sono il tipo che se tenta una rapa lo prendono subito. Come far calzoli e accettare le manette. Vado a fare l'elemosina. O mi metto la parrucca, vado a dare il QSO. Magari qualcuno mi prende per pietà. Beh, allora sai, se noi ci mettiamo a chiedere l'elemosina ci facciamo i soldi veramente. Ma non credo. Non credo proprio. Ascolta, Natale, ma tu ne hai notizie di Sandro Satellite, ne hai più avute? È sparito, poi non so se si era lasciato oppure era andato ad abitare, cioè non a Sassari, più distante. Notizie hai? No, non ho notizie, potrei averle. So che lui è in un paese che lavora per quella banca là. Sì, sapevo che lavorava per la banca, però poi forse si era lasciato la moglie, forse, ma voci in corridoio. E vabbè che ormai, cioè lui non tratta più radio, non è tratta più, proprio zero totale. Noi siamo gli ultimi superstiti del hobby delle radio. Io volevo espandere questo hobby, provare il digitale, ma sempre non da sostituire la 27, ci mancherebbe, da affiancare la 27, ma poi mi anche solo sperimentare, poi me ne posso anche vendere le radio. A me interessa la 27, tutto il resto è solo di contorno. E infatti, e bisognerebbe anche cambiare la frequenza, non entrare nella frequenza di quelli là quando sei in digitale. No, infatti dobbiamo trovare una frequenza segretissima, o in VHF o in UHF, che sia grossomodo libera però, non a disturbare servizi attivi, no. No, già ne parliamo, va. Caro Natalino, tu sì che mi capisci, tu sì che mi calmi i nervi. Buonasera. Buonasera, chi è, Giulio? Sono negativo Marino, ciao Franco, ciao Natalino, avanti Natalino. Ciao Marino. E allora, come andiamo Natalino? Sì, un po' a piedi, un po' in pullman, già, un po' in bicicletta, già. Mi adattie, non se la fanno ancora, per quali figli sì? Forzate, oia. Ma sai quante persone ci mancano a noi, non le vuole pigliare da noi, no. Non le vogliamo prendere questa azienda qua, negativo. Magari, questo lo prende, la guadagnare loro, ma negativo assumo il personale, come al solito. Bene, avanti, io Franco, come va? Marco, ciao Marie, buonasera, ben entrato. E oggi, vabbè, anche ieri non è entrato nessuno, oggi solo Claudio per 10 minuti, poi anche lui ha dovuto chiudere. Io ho fatto una pausa per mangiare e poi sono rientrato. Anche PMR non c'è nulla oggi, non sento niente. Ieri eravamo a Caro Felice con un altro CB, ha voglia chiamare in PMR. Oh, zero totale, non abbiamo sentito in tutta la sera nessuno. Almeno diciamo dalle 5:30 in poi. Sì, guarda, anch'io ce l'ho acceso, anch'io ho fatto chiamata dell'inizio, ma negativo, non rispondo. E vabbè, ieri sera vi stavo ascoltando perché stavo facendo un lavoretto qua e non ascolto, appunto. Volevo entrare a salutare a Claudio, non ce l'ho fatta, l'ho chiamato in un'altra parte, per una cosa o l'altra. Bene, avanti, resta lì. Ehi, K. Quando lo risenti lo saluti, non c'è problema per quello. Io lo so, che Claudio è ricco, lo so, anche lui. Adesso, forse da lunedì in ferie, se non mi sbaglio, o no? Non l'ha già fatto in ferie? No, le deve fare. E io sono da lunedì, oggi ho terminato alle 3, basta, per oggi. Adesso, non mi sono fermato un attimo in questi mesi, è sempre uscendo nei 2 mesi, a 3, 2 mesi o 3, basta. Figurati, io mi alzo alle 3, alle 4 sto uscendo da casa, e alle 4:30 sto già uscendo dall'azienda. Figurati, sono stanco molto, ho una stanchezza, poi stavo facendo un trabacco qui in campagna a casa e ho preso l'atto, ma adesso già voglio dire che mi riposo un po', va, avanti Marco. E io, vabbè, è da una vita che sono in ferie, quindi non lavorando c'ho anche troppo tempo disponibile, capito? Chi lavora non ha tempo per godersi le ferie, chi non lavora c'è troppo tempo ma non c'è soldi per godersi le ferie, te ne immagini? Ci vuole una giusta via di mezzo, lavorare poco e avere tempo, lavorare part time, ma a trovarne una cosa leggera. Io purtroppo ho la schiena compromessa, quindi lavori di peggio non ne posso fare. Sarebbe bello trovare una cosa tipo bidello oppure un lavoro d'ufficio, ma a trovarlo sempre, il problema è quello. Bene, bene, io per esempio Natali oggi alle 8:05 vado e voglio vedere un telegiornale dall'inizio. Te ne immagini, vanno a rubare a casa di una signora 83enne, non trovano nulla, allora si sfogano su di lei picchiandola, tutta piena di lividi. Ma chi è la bestia che fa roba leggera? Sicuramente sono romeni, perché quelli sono animali, non hanno rispetto nemmeno per gli anziani. Quanto sono contento se vengono qua a forzarmi la porta o a fare qualcosa, non ci riescono perché è blindata, li rosso prima dalla finestra. Tutti sforacchiati si trovano, mi passa un colpo solo con l'Ubusini a pallettoni e sono tutti a gruviera. E tutta gente all'andaggio a questo, hai capito Marco? E gente all'andaggio, non c'ha cuore, sono nati per rubare, sono ladri. Io amo che non mi becco a casa, dopo vediamo. Io sono tipo questura, la polizia non le chiamo, perché non le chiamo per nessun motivo. Quello che si prende, si prende. In casa mia c'è un piccolo cagnolino di mia figlia, c'ha 20 mesi, è un cane corso. Adesso non mi sbatte nulla, quello che succede. Ah, lì. E io altro che cane corso, c'ho un bel fucile a pompa, capito? Una carabina, poi c'ho due pistole, insomma. Si entrano in occhi, non ne si disani. E vabbè, tu c'è l'armeria, io sono camera, lui e i suoi figli, mi copro un po' di gelatina e me la tengo qua, capito? Avanti Marco. A me, io sono disarmato invece. Io che cosa posso disporre? Se entrano qua, o Marie, si commuovono e ci lasciano anche 100 euro. Non mi rubano niente qua. E se no, cosa mi difendo? A morsi, può accoltare la cucina, ma non rubano niente qua. Cosa c'è da rubare? Il baracchino e boh. Anche quello spostano via. Io ho un collega che abita al centro storico, che nella vita abita al centro storico, sapete, ha acquistato una macchina, di quelle macchine blindate o occasione, no? Quella macchina blu, l'ha presa, lui gli piaceva e se l'ha presa. Beh, gli hanno smontato e c'hanno tutti le, come si chiama, gli specchietti elettronici, no? Tutti proprio automatici, smontate. Poi gli hanno smontato e l'ha trovata seduta in terra, figurati, nessuno ha sentito nulla. E dopo tanto sono riuscito a trovare il chiero, io domani giù al centro storico, hai capito? E la polizia ha detto sono loro, purtroppo cosa ci possiamo fare? Non ci possiamo fare nulla se non tu sul fatto, avanti Marco. Ehi. E poi sa cos'è, la gente anche se vede non dice nulla, la gente non vuole essere coinvolta. Anche qua in questa via sono un po' di vigliacchi, capito? Se vedono qualcosa non si intromettono. Altrettanto farò io, se qua vedo casini faccio finta di non vedere. Prima chiamavo quando succedeva qualcosa, anche per un furto di macchina ho chiamato, però non è valsa la pena, capito? Ora faccio come gli altri, non vedo, non sento, non parlo, non voglio più sapere niente. Mi faccio gli affari miei, mi risolvo gli affari miei se succede qualcosa, ma per gli altri non ci metto più becco. Ma se chiami non ci vengono neanche. Se non è un motivo serio che c'è sangue o cosa, no, non ci vengono. Ho provato a chiamarli io perché era impossibile, nuda, non vi sono giunti. Lo so, io alla mattina, lo sai che entra quell'ora la mattina, io alle 5:20 sono già al centro storico, lavorando. Una volta è successo mezzo casotto, ho chiamato, 2000 domande, alla fine mi hanno mandato dalla polizia ai carabinieri ai vigili urbani. Poi sai a chi sono venuti? Verso le 9:30, ha detto che non c'era neanche un mezzo. Giorgio, figurati, qui ti ammazzo e se lo interviene, è un caos, è un macello. E ti volevo dire, lo sai, che lavoro faccio, se volte volte trovo magari dei documenti, portafogli, ho trovato un bel portafoglio a suo letto, se da solo leggermente, c'era di tutto, casa credito, casa d'oro, ho preso, ho consegnato la cosa della polizia, non so cosa faccio la prossima volta, prendo il buco della cosa delle poste, 2000, sono stato un anno presso a loro, ogni tanto mi chiamavano, e a chi aveva trovato, e cosa faceva, e così, già c'è delinquente, non io, avanti Marco. Sì, è vero, io una volta al mercato ho visto un portafoglio nel cestino della spazzatura, quelli tondi di metallo, no? Ed era appena sotto uno strato di mondezza, sicuramente non era lì da molto. Io, vabbè, ero ragazzino, mi ero impegnato molto. L'avevo preso e l'avevo portato proprio alla questura, a me. Alla questura dove ci sono i giardini, no? La vecchia questura. E ho raccontato tutto, ho visto che era nel cestino della... Soldi non ce n'erano, c'erano solo documenti, era un uomo dei paesi, sicuramente gliel'hanno fregato al mercato quella zona, si sono pigliati i soldi e poi l'hanno buttato nel cestino. Insomma, ho spiegato tutto lì e poi già si sono arrangiati loro. Però non mi hanno chiesto niente a me, assolutamente. Non mi hanno chiesto niente dopo la volta. Certe volte è comodo metterlo nella cassetta delle poste, poi già ci pensano le poste a recapitarlo, se lo vogliono recapitare, se no si arrangiano. Io quando ho perso portafogli non ho visto più niente, né dinane, né documenti, né niente, capito? Così è. Vai Natalino. Ok, io l'ho perso lo stesso il portafoglio con soldi, documenti, non è tanto barri di Nagibira, mi pare di una sessantina di mila lire, perché era ai tempi della lira che l'ho perso, ma per tutti i documenti, tutti i passeggi che ho dovuto fare, non ne ho più trovato. Cosa gli costava a casa metterlo nel coso della posta? Boh! Un casotto, comunque Max, sei stato che fortunato, io sono stato un anno a presa loro, ogni tanto mi chiamavo, capito? Già c'è delinquente ero io. Beh, io parlo già tre anni fa ce ne davano, dove lavoro io ce ne davano ancora i mesi elettrici per centro storico. Ero di servizio la domenica, faccio servizio e ho trovato un portafoglio sempre dentro il cestino. Cambio la busta, portafoglio, bello pieno. Ma documenti, ripeto, bello pieno di documenti che di tutto c'era. Io verso il ricevente sono fermato, parcheggiato, ho aperto e c'era il documento, mi c'è anche il numero di telefono. L'ho chiamato, ho preso quattro volte che così e sai, non so se l'ho perso, ma l'hanno rubato. Comunque ce l'ho, gli ho detto, guarda che ce l'ho io. Si fa trovare quel riciclo prima le 10 e mezzo, che dopo io vado via da qua, va. È venuto una faccia, la voleva presa schiaffa a bocca proprio, provato i documenti, non mi cos'è, un funzionario di banca, mi è toccato pagare il caffè perché era un morso di fame, invece qualche mese fa ne ho trovato un altro, sempre c'è lo studio, questo qui c'è lo studio, era una persona abbastanza in gamba, l'ho chiamata e gentilmente mi ha anche ringraziato, sinceramente, proprio c'erano documenti, ma documenti... proprio documenti seri anche di un'attività che c'ha questa persona qua. A meno questa mi ha ringraziato, io non volevo nulla, anzi sono andato, abbiamo preso il caffè assieme, abbastanza in gamma, ma quel morso di fame, guarda, gli ho offerto il caffè io, ho deciso la prossima volta prendo, se le trovo le imbucco le poste, non mi sbatte nulla. Avanti Natalino. Era passato perché mi è sembrato di sentire mia moglie, invece no, che c'erano dei bambini fuori giù. Adesso torna, rompe il mattarello dietro la noce del capocollo. Ok, sento qualche strato, c'è qualche mio vicino che sta modulando. Hai capito, è Marco, la prossima volta negativo prendo e butto nella cassa del posto, e dopo si arrangiano loro direttamente, non mi conviene più fare queste cose, se no già sono stato un anno a pensare a loro, poi mi tocca anche anche offrire il caffè, perché siamo di fame. Che cazzo Dio, sono già ne ha questo qua. Avanti. Una volta invece io l'ho fatto recuperare il portafoglio a una mia ex, che c'era il mio numero di telefono. C'era. Mi hanno chiamato i vigili urbani dicendo che hanno trovato il portafoglio e i documenti che c'erano di questa signora qua. E io ho preso e gliel'ho fatto recuperare. Mi va ai vigili urbani che c'è il portafoglio con i documenti. E sicuramente i vigili urbani sono stati, diciamo, qualcuno, nostri colleghi l'avevano consegnato, anch'io adesso, lo so che io la faccio toccare, quando trovo qualcosa ormai, qualcosa del giorno prendo e la lascio a Piantone, capito? Lascio a Piantone e poi sarà già Piantone a consegnarli alle persone, capito? Sicuramente sarà così, avanti Marco. No, lo chiamano lì al comando e gli restituiscono quello che a me mi hanno telefonato, perché nel portafoglio di questa signora qua c'era il mio numero di telefono, no, il mio nome e il numero di telefono. Mi hanno telefonato i vigili urbani e ho detto vabbè, adesso la telefono e la faccio avvicinare. E così è giubato. Esatto, sono per i documenti, non è per i nomi, usi i soldi, ma c'è vero, sono i documenti che costano. Devi fare tutto, è un caos. Avanti Marco. Via. A proposito di chiamate di polizia, no? Noi stiamo parlando dell'85-86, no? Avevamo il baracchino da un po', non molto però. Arriva questa lettera raccomandata da questo dei Sassari e c'era scritto, e la concessione era a nome di mamma, no? Dice, la signoria vostra è invitata presso i nostri uffici, non so, per discutere di affari di polizia. Ha detto, papà, stavo per fare il passaporto a fuggire, no? All'epoca. Ma, insomma, non sapevamo come mai l'avevano convocata, no? E beh, semplicemente gli hanno detto che da Cagliari la... diciamo da chi è che si occupava delle concessioni, no? Cioè avevano avvertito la Cagliari che avevamo preso il baracchino, avevamo fatto la concessione e all'epoca c'era l'obbligo di denunciare la detenzione dell'apparato e in 27 nessuno ci aveva avvertito che bisognava denunciare anche l'apparecchio, sai, numero di serie, marca, modelli, e semplicemente ci hanno fatto denunciare l'apparecchio omologato e ha detto che avevano denunciati anche quelli non omologati. L'importante era non usarli. E infatti avevamo messo, l'omologato era l'FM500S e poi avevamo tipo il multimo dei 3, il Viking 2 e altri apparati. Cioè bisognava denunciare il possesso ma non usarli, cioè non erano nuovi. Tutto lì ci hanno detto sufficiente di non usarli e basta. Poi noi li usavamo lo stesso, quello è ovvio. Capito, ma caspita, aver ricevuto questa lettera, no, per discutere di affari di polizia, noi ci siamo assustati, vabbè io ero piccolino, ma questo di convocarti così non... Ebbene, nessun pirla in 27 all'epoca ci aveva avvertito che bisognava denunciare il possesso, capito? E guarda, io qua con la denuncia del pretore, il pretore sono io qua davanti. Io la ero minorenne, l'avevo denunciato, era una dichiarazione e poi la dovevi fare la domandina, lasciarlo in questura e dopo due giorni lo ti controllavo, ti mettevo il timbro e dovevi mettere il tipo di marca, i vatti, l'apparecchio, tutto qua, non niente particolare, comunque sono qua davanti, io ce l'ho appeso insieme alla concessione, alla SVL che è compare. Sì, poi io l'ho fatto, ero, c'avevo quanti anni? C'avevo 12 anni, figo, c'avevo 12 anni perché l'apparecchio era ancora era mio lene, c'erano mio padre, dopo automatico è passato a nome mio, tutto qua. Quindi era, diciamo che era obbligatorio, non c'era bisogno di chiamare la polizia. Come io di tanti anni mandare la lettera, come mandavano sempre la lettera dal PT di Cagliari. Avanti. Eia, ma comunque è molto cordiale, all'epoca mi ricordo anche il nome, seconda metà anni 80 grosso modo, sai, 86 o giù di lì 85, maresciallo Frongia, però maresciallo, questo che non ho capito perché c'era dalla polizia era maresciallo, o sto sbagliando io, era puntato, non lo so, maresciallo. polizia all'epoca era già staccata dall'esercito, come mai maresciallo? Mi puzza un po'. No, gli hanno cambiati dopo i gradi, maresciallo corrisponde a ispettore. Ah, quindi ancora tenevano i vecchi gradi in quegli anni là. Fronge, insomma, molto gentile, molto cordiale, ci ha spiegato tutto lui, abbiamo preso la carta bollata, abbiamo denunciato il possesso. Mi pare che ce l'abbiamo ancora, mi la vecchia denuncia di possesso, pensa. Come io ho ancora la vecchia concessione mi conservata, come una reliquia. L'avevo messa anche sul forum Roger Tappa per farla vedere ai nuovi che non la conoscevano, perché adesso è tutto diverso. E adesso concessione ormai non esiste più, c'è solo autorizzazione ogni anno. È solo autorizzazione, prima c'è la concessione, il numero sigla tutto quanto, e l'ho avuto fino a di marzo, io ho la rinuncia del questore, ce l'ho qua in carta bollata, diciamo, e è gialla, la cosa è vecchia, è anche giallo sta diventando, avanti. Figa, guarda, io e mamma, no, siamo entrati a modulare nell'84, in estate, io avevo 13 anni, non avevo nemmeno l'età per modulare, e indovina la prima sera che sono entrato col portatile che mi è capitato, Paoletto Falcone. Figurati, Paoletto Falcone. Tu l'hai conosciuto anche tu, forse tu non so se l'hai conosciuto, Natalino sì, Natalino già volevamo noi da anni passati. A te ricordi Natalino Rosa Verde? Eia! Sapotolo era, un inventore delle cose, lei faceva poco le antenne, che la sua era fili, filetti, poli, oia, un caos, avanti Natalino. La portante d'oro. Esatto, la portante d'oro. Avanti Marco. Marco? Scusate un attimo, mi sono preso una maglietta, il torso nudo e qua comincia a essere veramente freddo a quest'ora, abbiamo la finestra socchiusa, aspetta, un bel freschetto è arrivato, finalmente dico io. Il Rosa Verde, diciamo, non l'ho conosciuto direttamente perché era già andato via all'epoca, l'ho conosciuto per sentito dire da Giulio, da altre persone. C'era un dipolo dentro casa, così è. Aspetta, scusa, è un dipolo, ma stava sempre ventando, era un lavoratore, sbaglio, lavorava giù a Polozzose, lui non so cos'era, a Polozzose. Stava sempre ventando, non era proprio il carica vita che adesso ha buttato dentro casa, pesi, uia. In effetti lo chiamavano la portante loro, vero Natali? Eia, una volta hai parlato un po', l'avevo un'anima di coso, di ala verde, e la trunca drugavo, curavo, non sento più nessuno. E io credo, si saccavo. Oia, ce n'erano divertire prima Marco, quanto c'era divertimento, Giulia. E invece Natalia Torricone a Torino Rundine, poi c'era Torino, poi c'era Nando, Torricone, sì. Eia, cazzo, a Torino Cavasacca, te lo ricordi? A Torino, trottolo, Torino ogni tanto, già sono parecchio da vederlo, diciamo vedevo, non so neanche se è in pensione, lavoro parecchio più restante, poi l'ultima volta era giù in provincia. Forse sono andato in pensione, se non sbaglio, avanti Natalino. Forse sì, sono da molto che non lo vedo. Sicuramente, c'era gente, poi c'era l'altro amico di cosa, come si chiama, di bancari, che ogni tanto non vedo, mi ero sbandato, come è diventato, Nino, e di Nino, te lo ricordi, sì? Nino di Bancali, sì, è il vigile notturno, stai dicendo. Ma chi, Torre Bravo? No, un altro. Il nome attivo, Marco. No, non è vigile del Kosovo, lui è paventino, mica è magro, Natali. Quello che stava lavorando al comune, 3 mesi, già di Nancy, questo da qua, dai. Oggi l'ho visto anche a poco, è sempre, era sposato, si è separato, ma... c'era a casa, vicino a Torino Rundi, nel suo bancario. Non me lo ricordo, magari se lo vedo sì, con tanta gente che ho conosciuto, mamma mia. Ce n'era gente prima, ce n'era da divertire, poi c'era anche l'amico nostro, Bruno che lavorava giù alla cosa, la moto d'azione civile, macchina, Bruno, ci viene la gente, poi anche, vabbè, modulava anche il fratello Bruno, anche il fratello modulava. Avanti Marco. Aspetta, Bruno Ragano stai dicendo, tu il cognato di Ala Verde. Esatto, il cognato di Torre, sì, esatto. Secondo me il Torre, Torre vai. Avanti Marco. Io scusate, dai, io scappo. Volevo vedermi il telegiornale su Canale 5, dai. Ci sentiamo alla prossima, anche domani. Tanto no, noi non faremo niente qua. Non andiamo da nessuna parte, dai. Quindi entrerò in radio. Ok, ciao Natalino. Ciao Marie, ci sentiamo alle prossime, ok? Passate buona serata, buona cena, ciao a tutti. E altrettanto io adesso mi guardo la partita e me ne passo in QRT. Ci sentiamo Marie, grazie di essere entrato, entro ogni tanto, sei sempre ben accesso. Ci sentiamo alle prossime, va? Ok, benissimo, grazie dottore. Ciao Marco, ben sentito, saluto la signora, la tua madre, la tua familiare. Anche a te, dottore, alle prossime. Ciao, ciao.